Tanto grazie a Simonetta per aver presentato come meglio non si poteva quest'opera. Grazie davvero. Intanto Gabriele ci serve gentilmente il Chianti della cooperativa agricola Paterna. Io non vorrei dire nulla perché poi ci sarà Marco Noferi che, oltre all'intervento che gli abbiamo pregato di fare, potrebbe dirci qualcosa lui del vino. Mi permetto intanto che vi servono questo bicchiere di tornare sul concetto della grafica, perché veramente è un'opera che è nata sia per merito degli autori, però Andrea e Lio Ba, che ci hanno seguito, Granit Communication Design di Merano, e tutti gli artisti che hanno lavorato a questo progetto, hanno creato le immagini, hanno creato la grafica allo stesso tempo, quasi in tempo reale, quando si costruivano i testi. Quindi veramente abbiamo lavorato insieme in modo davvero molto, molto, molto stretto. È stata per me personalmente un'esperienza splendida. Era la prima volta che vedevo nascere davvero da zero una pubblicazione di questo tipo, e ci abbiamo messo veramente tutte le nostre ambizioni e energie. Credo che Simonetta, la gola, anche se non ha bevuto, si è ripresa, e quindi le chiederei di regalarci un altro estratto da pastiche.